Guardate, ci sono tante cose che si potrebbero dire, ma io ne dico una sola e la prendo dal Vangelo. Chiunque sposa un'altra donna che non è sua moglie commette adulterio. Punto a capo. Anche se è tua figlia. Anche se è tuo figlio, anche se è mia sorella, anche se oggi fanno così tutti. Andare con un uomo, con una donna che non è tua moglie, è adulterio. Gesù lo chiama così. E noi dovremmo avere il coraggio di amare tutti, ma di non cambiare le parole, di voler bene a tutti. Di non giudicare nessuno, ma di non giustificare nessuno, è adulterio.